Savonarola, il frate che scardinò Firenze, prose scelte, un programma in collaborazione con Davide e Giorgio e Radio Big World. Savonarola, prose scritte molto tempo fa da Pasquale Villari che abitava in città e lette oggi da me che abito in campagna. D'altra parte, 100 scrivani non guardano un fattore e 100 fattori non guardano un contadino. Serio. Capitolo 7. Pico e i vecchioni dell'Apocalisse. Savonarola riprese il suo modesto ufficio di lettore fino alla quaresima dell'86, quando fu mandato a predicare in varie città della Lombardia e principalmente a Brescia. Ivi espose l'Apocalisse. La sua parola fu piena di fervore, il suo accento imperioso, la voce quasi tuonava. Egli accusò quel popolo dei suoi peccati, accusò tutta Italia, minacciò l'ira di Dio. Descrisse le figure dei 24 vecchioni e immaginò che uno di loro sorgesse ad annunziare i futuri danni dei bresciani. La città verrebbe in preda di furiosi nemici, essi sarebbero visti per le vie rivi di sangue, le mogli verrebbero tolte ai mariti, le vergini violate, i figli trucidati sotto gli occhi delle madri, tutto sarebbe stato pieno di terrore, di sangue e di fuoco. Concludeva il sermone invitando ognuno alla penitenza, perché il Signore avrebbe avuto misericordia dei buoni. La misteriosa immagine del vecchione fece una profonda impressione sul popolo, la sua voce sembrò risuonare veramente da un altro mondo, e le sue minacce spaventarono terribilmente. E quando nel 1512 la città dovette sopportare quel feroce sacco dai soldati di Gastone di Foix, nel quale morirono in circa 6.000 persone, i bresciani rammentarono allora il vecchione dell'Apocalisse del predicatore ferrarese. Il successo di questo quaresimale fu quello che prima cominciò a spandere in Italia il nome del Savonarola e pose un suggello alla sua vita, perché da quel giorno egli non dubitò mai più di se stesso. Un'altra occasione dette al Savonarola un secondo successo. Tenevasi a Reggio un capitolo di Domenicani nel quale si dovevano trattare discussioni teologiche e questioni concernenti la disciplina. Egli vi intervenne ed insieme con lui vi assistevano non solo un gran numero di ecclesiastici, ma ancora alcuni laici di grandissima fama nelle lettere e nelle scienze. Fra questi, quelli che più di tutti richiamava l'attenzione era il celebre Giovanni Pico, principe della Mirandola. Non aveva allora che 23 anni, ma già era conosciuto nel mondo come un prodigio di intelligenza e tutti gli davano il nome di Fenice degli ingegni. Fin da suoi più teneri anni fecero in lui maraviglia il precoce ingegno e la portentosa memoria. Avanzatosi ben presto negli studi, volle percorrere tutte le università d'Italia e di Francia, assistere a tutte le lezioni. Non contento di scrivere latino e greco più facilmente che il suo nativo linguaggio, fu il primo che si desse in quel tempo allo studio delle lingue orientali e di qualunque altra poté trovare un maestro o una grammatica, tanto che ebbe fama di conoscerne 22. E come nelle lingue, così nelle scienze sperava di essere universale e pensava di poter abbracciare tutto lo scibile dei suoi tempi. Furono poi tante le lodi che ricevé da tutti e venne in tale opinione di sé che, andato a Roma, propose di rispondere pubblicamente sopra 900 conclusioni nelle quali pretendeva di aver raccolto lo scibile ed invitò in suo nome tutti i dotti, promettendo ai menagiati di pagare le spese del viaggio. Quelle conclusioni erano in vero una povera cosa ed in fondo non contenevano nulla. Pure alcune di esse, riguardando l'astrologia divinatrice, furono tutte dal Papa condannate e la sfida perciò non ebbe effetto. Il Pico scrisse subito la sua apologia e si sottomise alla corte di Roma, sebbene la sua fama, in luogo di sminuirne, fosse andata per questi fatti sempre crescendo. E certo, dopo il nome di Lorenzo dei Medici, non ve n'era un altro che si fosse sparso nel mondo quanto quello del mirandolano. La posterità è stata però assai più severa e da poco a poco quella fama si è andata oscurando. La sua vasta erudizione era, per verità, poco profonda e gli restava assai indietro al poliziano nelle lettere e al ficino nella filosofia. Delle 22 lingue che si vantava di conoscere era sì poco pratico che un ebreo poté vendergli 60 codici come libri scritti per comando di Esdra, mentre non erano che la notissima cabala. Di alcune altre sapeva poco più che l'alfabeto. In italiano scriveva poi senza alcuna eleganza ed i suoi giudizi erano tanto malsicuri che egli fu di colore i quali preferivano le poesie di Lorenzo a quelle del Petrarca e di Dante. Non di meno molti erano i meriti del Pico. Egli fu il primo ad allargare l'erudizione del suo secolo nelle lingue orientali che innanzi a lui non erano da alcuno studiate. Egli dette l'esempio di un'attività instancabile, spesa tutta nel culto delle lettere, di un principe che rinunziava agli onori del suo grado per vivere da uguale fra gli studiosi. Il suo facile ingegno, la portentosa memoria, il conversare svariato e vivace, le maniere nobili e gentili, la bella e giovanile presenza, i biondi capelli che profusamente inanellati gli cadevano sulle spalle, tutto destava in lui simpatia e aiutava a diffondere il suo nome. Tale era l'uomo intorno a cui facevano corona tutti i dotti che si trovavano nel capitolo di Reggio e a cui mostravano singolare deferenza anche i più alti dignitari ecclesiastici. Il Savonarola sedeva in mezzo ai frati, tutto concentrato in se stesso, la testa avvallata nel cappuccio, il volto pallido e scarno, l'occhio infossato, immobile e vivissimo, la fronte solcata da rughe profonde. Tutto attestava nella sua figura un animo dominato da forti pensieri. Chi lo avesse quel giorno paragonato al Pico, vedendolo uno così vago, gentile, socievole e leggero, l'altro grave, solitario, severo e quasi duro, li avrebbe giudicati due caratteri in opposizione fra loro, due uomini che non potrebbero già mai intendersi. Eppure quel giorno dovevano divenire amici per tutta la vita. Nel Pico la fama, gli elogi e l'opinione che aveva di sé non erano arrivati a guastargli il cuore. Il suo animo, diverso assai da quello dei dotti del suo tempo, era essenzialmente buono e si apriva ingenuamente alle sante ispirazioni del vero e del bene. E questo doveva, malgrado ogni contraria apparenza, stringere fra due uomini così diversi un'amicizia eterna. Quel giorno il Savonarola s'accese fortemente nella disputa. Fino a che si parlò di Domma, egli restò immobile e silenzioso. Non prese parte in una disputa nella quale si faceva prova solamente da cume scolastico. Ma quando si venne a parlare della disciplina, allora si levò e la sua voce parve quella medesima di Brescia. Scosse come una folgore gli uditori, li tenne immobili e attoniti. Parlò contro la corruzione del clero e l'impeto delle parole lo trascinò così fattamente che egli medesimo durò fatica a fermarsi. Il suo discorso lasciò in tutti impressione d'un uomo straordinario, d'un uomo animato da uno spirito superiore. Molti vollero conoscerlo, parecchi principi si misero con lui in corrispondenza di lettere, ma quelli che più di tutti restò rapito dalla sua eloquenza fu il giovane Pico, che da quel giorno divenne ammiratore, seguace e uno degli amici più cordiali del Savonarola. Cominciò a levarne a cielo il nome, a spanderne la fama per tutta Italia e, fermatosi a Firenze, non fu contento sino a che non ebbe persuaso Lorenzo dai medici di invitarlo a venire nuovamente in San Marco. Ivi si strinse sempre più la loro amicizia, l'ammirazione del Pico andò ogni giorno crescendo ed è fuori di dubbio che solo la morte prematura gli impedì di vestir l'abito ed entrare anch'egli nel convento. Dopo aver predicato la quaresima del 90 a Genova, il Savonarola era, per le istanze di Lorenzo il Magnifico, richiamato dai suoi superiori a Firenze. E così il fiero nemico dei medici, il sovvertitore della loro potenza, veniva da essi medesimi invitato e pregato. Malgrado la sua accortezza, Lorenzo ignorava che tristi danni apparecchiava la sua casa e che fuoco accendeva in quel convento dal suo avo edificato. Il Savonarola non aveva ancora dimenticato la glaciale indifferenza dei fiorentini e non voleva esporvisi una seconda volta. Riprese perciò di nuovo l'insegnamento dei novizi di San Marco, che a poco divennero la sua cura più tenera, la sua speranza più cara. Infondeva ai loro i suoi sentimenti e le sue idee e aspettava intanto giorni migliori. Ma il suo nome era già noto e l'opinione del Pico aveva molto peso in Firenze, onde un numero d'amici più benevoli lo pregavano che soddisfacesse alla curiosità del pubblico e permettesse che almeno alcuni pochi venissero a udire le sue lezioni. Ed egli finalmente volle consentirlo, nel chiostro di San Marco, sotto una pianta di rose damaschine che, per la venerazione dei suoi frati, si è andata fino a oggi rinnovando, cominciò ad esporre l'Apocalisse ad un cerchio ristretto di pochi e benevoli uditori. Ma il numero ne andava ogni giorno crescendo, ogni giorno v'erano nuove perché salisse almeno una volta sul Pergamo. Non volendo più resistere a queste domande, raccomandò ai suoi uditori che pregassero per lui il Signore, ed un sabato disse loro: «Domani parleremo in chiesa e sarà lezione e predicazione». Era il primo di agosto di quel medesimo anno 1490. San Marco era affollato di gente che voleva conoscere questo nuovo predicatore, il quale, passato altra volta inosservato in Firenze, aveva saputo levare così gran fama di sé nel resto d'Italia. Il Savonarola finalmente salì sul Pergamo ed egli stesso lasciò scritto che fece quel giorno una predica terribile. Continuò l'esposizione dell'Apocalisse. Le mura di San Marco echeggiarono per la prima volta delle sue famose conclusioni ed egli riuscì per un poco ad infondere in quella moltitudine estatica l'impeto del suo cuore. La sua voce parve quasi più che umana. Il successo di quel giorno fu compiuto. Egli divenne il soggetto dei discorsi di tutte le brigate fiorentine. Gli eruditi lasciarono un momento Platone per disputare sui meriti del predicatore cristiano. Ma egli non si lasciò illudere da questo momentaneo trionfo. Capì che gli eruditi avrebbero ben presto mossa una guerra ostinata e, non potendo apporgli altro, lo avrebbero certamente accusato di poca dottrina.